per una sigaretta mi son prostituita, mi prende ora la fretta di dirlo alla mia amica che ha un lavoro precario giù al mercato rionale, quello dei cinesi in fondo al viale. Qui in città siamo tutti stranieri l'uno all'altro, c'è lo studente, il pazzo, lo gnomo sopra il tetto che quando cade a terra fa un sorriso spento per via della sostanza del momento. E tu mi dici ti amo, e tu mi dici ti amo, e tu mi dici ti amo. Qui la fretta è tutto e niente da rifare, lontano la strada, ritorno in alto mare, io mi vendo per troppo tanto, è tutto un sogno con l'impazienza di toccare il fondo. Se il tempo è denaro, questo denaro è tempo, ne manca sempre troppo, al resto fai lo sconto. Ho messo il mio profilo dentro al tuo più nuovo, come che elemosina il perdono. E tu mi dici ti amo, e tu mi dici ti amo, e tu mi dici ti amo. Aceleriamo dietro quale svolta.